L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta che dedichiamo quasi completamente all'economia circolare, ma vista da due punti di vista diversi. Uno è quello degli enti locali, l'altro sarà quello di un senatore della Commissione Ambiente. Si ritroveranno questi due mondi molto presto, la settimana prossima, nel corso della 18ª Assemblea Nazionale del Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane. E a questo punto vi presento subito il nostro primo ospite, che è Maurizio Tira, presidente del coordinamento Agende 21 Locali Italiane, e ci spieghi innanzitutto di che si tratta, che cosa vi troverete a fare la prossima settimana. Allora, innanzitutto preciso che è l'assemblea, ma è un'iniziativa aperta a tutti. Questo è molto importante perché... Ha fatto benissimo a dirlo. Ecco, altrimenti viene interpretato come è un'iniziativa convegnistica sul tema dell'economia circolare, che è una tematica assolutamente rilevante, perché porta il tema della sostenibilità ambientale anche a diretto confronto con i modelli di sviluppo economico. E il coordinamento Agende 21 Locali Italiane è da una ventina d'anni un'associazione che riunisce gli enti locali che stanno lavorando per portare avanti buone pratiche di sostenibilità ambientale a livello locale. Ci sono circa 500 soci e appunto l'assemblea è l'espressione di questa vita associativa, però appunto il 7 e l'8 di luglio è una giornata e mezza di lavori, la stragrande maggioranza del tempo è aperto a tutti ed è l'occasione per riflettere con chi vuole sul tema appunto dell'economia circolare. Già diciamo che siete sarete a Palermo, tanto per dare a Castelbuono, provincia di Palermo, piccolo in provincia di Palermo, scelto perché è come tutti i comuni soci un luogo di buona, un luogo dove si fanno delle interessanti iniziative riguardo per esempio la raccolta differenziata dei rifiuti, e anche perché le politiche dell'Unione Europea sono sempre di più rivolte direttamente verso le realtà locali, quindi essere in un luogo anche un po' difficile da accedere, ma insomma simbolo della stragrande maggioranza dei comuni italiani che, come lei sa, sono medio piccoli, è simbolicamente voler sostenere quelli che si stanno impegnando su questo versante. Senta, visto che ha nominato l'Unione Europea, avete un coordinamento anche europeo di enti locali, come può essere l'Agenda 21, con cui magari vi raccordate nel corso dell'anno? Sì, c'è un coordinamento ICLEI, che sono gli enti locali per la sostenibilità, che è una organizzazione importante, molto rilevante, per esempio alla COP21 di Parigi aveva uno stand e delle molte iniziative collaterali ICLEI, che è questo coordinamento appunto europeo degli enti locali per la sostenibilità, di cui siamo soci. Diciamo che sostanzialmente abbiamo riaderito da quest'anno dopo un periodo di interruzione dell'adesione. E nel passato abbiamo avuto anche dei ruoli attivi in questa associazione, quindi esiste anche questo coordinamento, sì. Dunque, passiamo direttamente al programma, diciamo, che avete per per i due giorni, 7 e 8 luglio. C'è una parte sicuramente di arricchimento, no? Per cui ci sarà anche il senatore Vaccari, che poi sentiamo anche in questa trasmissione. C'è una parte di scambio, immagino, di esperienze, di buone pratiche. Sì, la struttura del programma è molto semplice, nel senso che la mattina del 7 luglio, di giovedì, ci sarà un'introduzione al tema con alcuni relatori appunto sul tema dell'economia circolare. Il pomeriggio saranno quattro gruppi di lavoro che cercheranno di approfondire con testimonianze, esperienze, quindi come un modello di workshop, non più di relazioni, quindi confrontando le buone pratiche, i problemi dell'applicazione su alcune declinazioni dell'economia circolare, per esempio a livello della gestione del territorio piuttosto che della gestione dei rifiuti. E il venerdì mattina ci sarà ancora un momento, come dicevo, pubblico, dove interverrà appunto il senatore Vaccari, e poi, che come sapete, è il relatore della Commissione Ambiente del Senato del collegato ambientale, quindi sarà anche importante, diciamo, riflessione su questo provvedimento normativo che può aprire delle prospettive importanti nel futuro delle azioni locali, che contiene il tema dell'economia circolare. E poi a concludere ci sarà appunto il momento momento assembleare, ma come le dicevo è una piccola parte rispetto al programma del giorno e mezzo di attività. Al quale possono partecipare tutti, assolutamente, lo ripetiamo. Assolutamente. E quindi capire cos'è questa economia circolare di cui tanto sentiamo parlare, o meglio, forse l'abbiamo capito, ma non riusciamo a capire come nei nostri comuni, nei nostri enti si possa, no, realizzare questo, tutto questo movimento così virtuoso. Certo, assolutamente sì, ma l'economia circolare probabilmente la comprendiamo bene se comprendiamo il ciclo di vita delle materie e il tema dei rifiuti forse ci aiuta a capire. Un'economia tradizionale è quella che produce dei beni e lascia degli scarti che poi dobbiamo in qualche modo cercare di riassorbire nell'ambiente, perché noi viviamo su una navicella che è questo pianeta dove tutto deve rimanere, e l'economia circolare è un modello di sviluppo economico che si pone il problema fin dall'inizio di cosa succederà del prodotto terminale del processo produttivo, quindi dello scarto, e quindi teoricamente ci dovrebbe cercare di, non dico non produrle, ma sapere già che cosa farne, come riuso per esempio, quindi riutilizzando le materie, riutilizzandolo per la produzione di energia. Lei vede che sono cose che, se prese singolarmente, già si fanno, perché sono anni che ci preoccupiamo di questo tema, ma la sfida forse che sta dietro la sigla dell'economia circolare è un modello di sviluppo che tocca da vicino appunto il pensiero economico, che cerca di porsi il problema dall'inizio, invece che adesso ci poniamo il problema di risolvere il problema alla fine, no? Quando certo, abbiamo già i rifiuti da gestire. Quindi è un cambio di paradigma e anche un cambio di impostazione del ciclo di produzione, ma se pensiamo al territorio è sostanzialmente la domanda uguale di porci il quesito di cosa facciamo dei terreni dopo che li abbiamo utilizzati per certi usi magari che sono diventati obsoleti, pensa quante aree industriali dismesse abbiamo nel nostro paese, fra un po' avremo le aree commerciali dismesse, e quindi un modello che debba per forza produrre naturalmente benessere e ricchezza, ma senza produrre scarti. Poi lei mi dice: è facile fare questo, come si fa? Ecco, è evidente che bisogna lavorarci, e l'approccio tipico dell'associazione Agenda 21, come lei diceva correttamente, è quello di confrontarsi sulle pratiche, non soltanto sulle teorie, quindi cercare di capire come si fa, quali sono i problemi, quali risorse. Che cosa possono fare anche i comuni e gli enti locali? Perché poi di tutto quello che lei ha nominato c'è una parte che possono fare, ma una parte no. Se parliamo di produzione, non è sicuramente nelle loro competenze. No, naturalmente, però come lei sa gli enti locali sono il terminale di tutta una serie di problemi, per esempio il tema della mobilità, che dentro l'economia è un fattore importantissimo, perché la mobilità è un fattore determinante per lo sviluppo economico. In questo campo i comuni possono fare molto determinando dei sistemi di mobilità diversi. È chiaro che dobbiamo anche rinunciare a qualcosa, altrimenti non potremmo avere, come dire, lo stesso tipo di vita che abbiamo adesso e una minore produzione di rifiuti, quindi le emissioni gassose sono in buona misura sotto il controllo anche dei piccoli comuni, che possono determinare delle politiche in modalità diversa. Su questo anche il collegato ambientale ha qualcosa. Il fatto delle modalità, per esempio il compostaggio di comunità, una misura che è contenuta nel collegato ambientale, che vuol dire che appunto i comuni, le piccole comunità, si organizzano per un compostaggio, diciamo così, collettivo, che possa aiutare tutti quelli che non hanno la possibilità di farlo nei pressi della propria abitazione. I piccoli sistemi di produzione di energia centralizzati, che adesso stanno sostituendo le grandi reti di teleriscaldamento che sono state sviluppate negli ultimi anni, e anche queste sono sperimentabili a livello locale. Quindi ci sono delle possibilità. Chiaro, ci vuole un processo virtuoso di sostegno dall'alto e buone pratiche dal basso, quindi movimento nelle due direzioni. Certo, no? Lei sicuramente ha nominato una serie di esperienze che esistono, no? in alcuni, sì. Uno fa una cosa, uno ne fa un'altra. Penso, sì, che ci sia la necessità anche di portare queste esperienze dal locale al quasi, diciamo, nazionale. Cioè non solo ci vuole un governo dall'alto, ma ci vuole anche una diffusione di queste buone pratiche che va aiutata però. Sì, io devo dire che il collegato ambientale mi pare un esempio di come potrebbero essere le norme nel futuro. Cioè, da un lato fa diventare norma delle buone pratiche. Faccio un altro esempio, così parliamo non sempre delle stesse cose. I contratti di fiume, che sono una sorta di accordo, di patto locale delle comunità che vivono lungo un corso d'acqua per utilizzare questa risorsa. I contratti di fiume esistono già, ma nel collegato ambientale hanno un articolo, quindi vengono assunti dalla normativa. Un altro esempio al contrario, dove la norma può determinare qualcosa, non le sembri troppo banale, ma il progetto ambientale prevede la possibilità di riconoscere l'assicurazione a chi si reca al lavoro in bicicletta e ha un incidente in bicicletta. Questo che sembra un fatto risibile è assolutamente un provvedimento che deve arrivare dall'alto, perché non è una soluzione che possono scegliere i comuni a livello locale, ma che può determinare qualche modifica nel modo di spostarsi, proprio perché ha introdotto una piccola come dire, novità dal punto di vista della copertura, quindi della garanzia a chi sceglie di muoversi in quel modo. Vedi, c'è un movimento dal basso, alcune cose che funzionano diventano norma e questo si spera che possa diffonderle, alcune cose che hanno bisogno di interventi normativi, ma non grandi interventi normativi, testi unici che richiedono anni di elaborazione, ma piccoli interventi normativi mirati che però possono determinare delle soluzioni. Pensi all'effetto che ha avuto il divieto di fumo, che si scrive con cinque parole e che è stato un provvedimento a livello nazionale e che poi ha avuto degli effetti importantissimi. Ci vogliono questi due movimenti, alcune cose dall'alto e alcune cose che funzionano, che vengono assunte nella norma. È molto bello, speriamo che prosegua, insomma, questo dialogo. Ho anche l'impressione di non averla convinta, però no, invece no, mi è piaciuto molto il fatto che mi ha portato due esempi diversi, no? Che però possono avere effetti utili e interessanti per tutti, e mi auguro appunto che questo dialogo sia aperto con le istituzioni. Adesso la partecipazione del senatore Vaccari mi fa capire che il canale l'avete aperto e che quindi funziona, ecco, e che prosegua poi con i tempi ragionevoli, perché poi noi abbiamo sempre delle lentezze, ma insomma, vabbè, lentamente le supereremo anche queste. Deve essere ottimisti, però, perché guarda che la coscienza collettiva è molto cresciuta negli ultimi 20 anni su queste tematiche, e anche a livello degli amministratori più giovani, secondo me, questa coscienza c'è. I temi sono sempre più spesso nell'agenda urbana, quindi bisogna essere ottimisti su questo fronte, io credo. E il dialogo con le istituzioni è assolutamente aperto. Su un'associazione, Agenda 21 soffre, come tutte le associazioni strutturate, delle difficoltà di far lavorare i propri membri, di averli e di tenerli, ma ha da sempre una reputazione molto buona e quindi è sempre stata ascoltata. Quindi su questo sono ottimista. Aggiungo anche che c'è un lavoro di network di associazioni simili che lavora nella stessa direzione, che stiamo portando avanti, che pure ritengo molto importante. Fare rete di reti, questo è credo anche la sfida del futuro. Assolutamente, perché altrimenti si rimane rinchiusi nel proprio piccolo circuito e quindi non si sfonda, sicuramente questo è necessario. Le chiedo l'ultima cosa, che è: perché si chiama Agenda 21? Perché dopo le conferenze mondiali di Rio de Janeiro e la conferenza europea di Aalborg, e se eravamo alla fine del XX secolo si è delineato il percorso del XXI secolo. L'agenda richiama l'agenda, quella su cui noi ci segniamo le cose da fare. 21 era il XXI secolo, adesso nel XXI secolo ci siamo e dobbiamo continuare a scrivere l'agenda e a realizzarla. Quindi il nome deriva da qui. Le cose da fare nel XXI secolo, adesso ci siamo e dobbiamo farle. Eh sì, altrimenti rimaniamo indietro sull'agenda. Grazie molte, buon lavoro, allora ci farete sapere insomma com'è andata. Facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo tra pochissimo. Verona-Torino, trasferta d'affari, io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare, il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali, basta un autoradio digitale. DAB Plus, chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio 24 è in Digital Radio. L'altro pianeta. Di nuovo ben ritrovati da Laura Bettini per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale stiamo parlando dell'Assemblea Nazionale del Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane, che si terrà la settimana prossima, un appuntamento che è aperto anche al pubblico e che si terrà a Castelbuono in provincia di Palermo. Il nostro primo ospite è stato il presidente del Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane. Il nostro secondo ospite, gli diamo il benvenuto, è Stefano Vaccari, componente della Commissione Ambiente del Senato, è stato relatore del collegato ambientale, si è occupato in particolare della consultazione pubblica sul pacchetto europeo dedicato all'economia circolare, quindi le chiediamo un'introduzione su questo particolare aspetto. Vaccari, buongiorno. È stato un lavoro che è cominciato l'anno scorso attraverso una prima risoluzione che noi abbiamo discusso e approvato all'unanimità in Commissione Ambiente dopo aver ascoltato diversi soggetti, ed eravamo nella fase ascendente, quella cioè nella quale la Commissione Europea stava ancora definendo le quattro direttive e il piano d'azione, e abbiamo ritrovato poi molte delle osservazioni che avevamo fatto all'interno delle quattro direttive e del piano d'azione. Successivamente al 2 dicembre, quando la Commissione ha pubblicato diciamo, il pacchetto sull'economia circolare, noi abbiamo avviato un altro percorso, diciamo, di audizione più tradizionale, ma di ascolto anche attraverso gli strumenti che la tecnologia ci consegna, cioè attraverso una consultazione online su schemi, diciamo, specifici rivolti in primo modo al mondo delle imprese, che abbiamo interrogato su queste quattro direttive. Da lì sono emerse una serie di osservazioni che anche questo all'unanimità in Commissione Ambiente abbiamo approvato e le abbiamo mandate alla Commissione Europea. Quando lei dice direttive, sono i temi, diciamo, su cui si interviene, non so, i rifiuti? Sono quattro direttive, sono due direttive sui rifiuti, una sulle discariche e l'altra sui cosiddetti RAE, i rifiuti elettrici e elettronici, le pile e anche i rifiuti derivanti dalla rottamazione delle auto. Quattro direttive affrontate, diciamo, in modo specifico. Quando noi parliamo di economia circolare, parliamo di un'economia che parte da queste direttive per poi svilupparsi, no? Perché da questi rifiuti poi noi dobbiamo tirar fuori qualcosa che possiamo utilizzare. Quindi questa era la base, diciamo, del lavoro. Sì, assolutamente. Cioè, l'idea che adesso noi facciamo i conti spesso e volentieri con un'economia lineare, cioè che dalle materie prime c'è il prodotto viene usato, poi dopo l'uso viene così rottamato, per usare una parola in voga. Invece da ora in poi l'idea è che diciamo, i rifiuti possono diventare delle materie prime, anche se in modo secondario, ma delle nuove miniere, sia per quanto riguarda la parte urbana sia per quanto riguarda quella industriale, in grado di alimentare nuove filiere di produzione in modo virtuoso, insomma. Quando mi diceva prima della consultazione, diciamo, chi ha partecipato? Che cittadini, associazioni? Partecipato un po' tutti. 55 soggetti, in prevalenza associazioni delle imprese, in particolar modo del mondo dell'impresa italiana, imprese singole, e hanno partecipato anche, devo dire, ma due regioni soltanto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, che hanno prodotto delle osservazioni, che hanno risposto a, diciamo, a uno schema di domande che avevamo predisposto, e da lì sono venute fuori alcune richieste che abbiamo fatto all'Unione Europea. Ad esempio, abbiamo chiesto nelle nostre osservazioni che nelle quattro direttive, nella stesura finale, ci sia maggiore chiarezza sia nelle modalità con le quali si vanno a calcolare i varie tipologie di rifiuti, perché oggi in Europa si calcolano quattro metodi diversi, ad esempio chi fa raccolta differenziata, oppure ad esempio abbiamo... Che poi rende piuttosto difficile avere un quadro di come vanno le cose. Esatto, un quadro di paragone che stranamente ci vede verso le ultime posizioni, ma nei dati anche dell'altro giorno di Legambiente dei comuni ricicloni parrebbe proprio di no. Insomma, ci sono tante esperienze virtuose nel nostro paese che invece, insomma, andrebbero valorizzate e ricollocate anche. E questo poi concorre anche, non so, a misure sanzionatorie quando andiamo a guardare. Esatto, perché se non raggiungi gli obiettivi che noi chiediamo devono essere più ambiziosi, perché gli obiettivi che nelle direttive sono state fissate, ad esempio sul riutilizzo e riciclaggio di rifiuti urbani, sulla parte di rifiuti organici, abbiamo chiesto di aumentare gli obiettivi al 2025 e al 2030, riprendendo gli obiettivi della vecchia direttiva Barroso, che è stata tolta e ripristinata da queste quattro che le ho specificato. E abbiamo chiesto, ad esempio, di inserire nuovi obiettivi specifici, ad esempio per i rifiuti non pericolosi che vengono dal settore delle costruzioni e delle demolizioni, perché come ci testimonia sempre Legambiente, l'altro giorno ha presentato un rapporto che ci dice che già nel nostro paese questi rifiuti sono riutilizzati per fare strade, per fare case, per fare tante interventi che consentono di non usare ghiaia dei fiumi, delle cave e quindi di risparmiare sulle materie prime, ovviamente. Quindi calcolo, il modo di metodi di calcolo, insomma, da uniformare, più ambizione, perché altrimenti ci fermiamo, insomma, la macchina non gira. Poi l'inserimento, mi diceva, di questi rifiuti, quindi una serie di richieste al rialzo, direi un po' tutte. Esattamente. Responsabilità estesa del produttore, abbiamo chiesto che l'Europa sostenga gli stati membri nell'etichettatura che metta nelle mani del consumatore, diciamo, il percorso che hanno fatto, che ha fatto quel prodotto dalle materie prime fino alla fabbricazione, diciamo, stessa, in modo che al consumatore sia consegnata un'etichetta in grado di certificare e definire la sostenibilità del ciclo di vita di quel prodotto, cosa che adesso non lo è, lo è solo in parte, lo è volontariamente dal punto di vista delle singole imprese. E abbiamo chiesto su questo aspetto di far adottare bilanci di circolarità, li abbiamo chiamati, che ovviamente l'Unione Europea deve uniformare, diciamo, dal punto di vista delle modalità con le quali si devono andare ad adottare, però anche qui per mettere sempre nelle mani di chi poi utilizza quei prodotti una carta che dice come attraverso le materie prime seconde, attraverso lo sviluppo tecnologico, il riuso che è stato fatto, la modalità con la quale si può riparare e riutilizzare quel prodotto, ecco, avere una carta d'identità diversa sul tema dell'impronta ambientale. Senta, ma mi viene così, che siamo un paese un po' strano, nel senso che abbiamo delle punte di grandissima eccellenza, di punte purtroppo che sappiamo molto basse in questo tema, ma chiediamo comunque che ci mettano degli obiettivi molto alti. Però so, va bene così, cioè ci vogliamo migliorare, questo non la vieta, no? La parte degli imballaggi mi incuriosiva, sì, perché poi l'imballaggio ovviamente si può riutilizzare, eccetera, eccetera, ma va anche prodotto. Su quell'aspetto lì ci sono state da parte vostra delle osservazioni specifiche? Sì, abbiamo chiesto che, diciamo, la parte che era pur affrontata dell'eco design, quindi della parte di progettazione, sia una parte, diciamo, maggiormente valorizzata e sostenuta verso il mondo dell'impresa, perché non dimentichiamo che queste quattro direttive, questo piano di azione, saranno dotate di risorse che verranno date agli stati membri, che a loro volta dovranno erogarle al mondo delle imprese. Perché si tratta di questo, attraverso questo pacchetto, di, diciamo, concretizzare quella che un po' di anni fa qualcuno chiamava una riconversione ecologica dell'economia, diciamo, europea, perché attraverso questo pacchetto l'Europa potrà avere meno bisogno di materie prime che va a prendere in giro per il mondo e quindi, diciamo, essere più competitiva ed ecologica, ovviamente, in ambito mondiale. Questo c'entra l'ambiente certamente, ma c'entra un grande fattore di crescita economica sostenibile. Ecco. Sicuramente è anche una questione di appunto salvaguardia dell'ambiente europeo, che sicuramente è molto sfruttato ormai, no? Vista il lungo periodo per il quale l'abbiamo sfruttato. Esatto. Sugli imballaggi, se posso, abbiamo anche chiesto siccome nelle direttive si parla di valorizzazione energetica degli imballaggi, cioè in termovalorizzatori per intenderci, per produrre energia elettrica ovviamente, abbiamo chiesto che venga introdotto un divieto portare alla valorizzazione energetica tutti quei prodotti che sono compostabili, riciclabili e convertibili in materia prima seconda, e solo invece quelli che non hanno queste caratteristiche che vengano, diciamo, valorizzati energeticamente con impianti ad alta efficienza e regime di cogenerazione. Insomma, quindi osservazioni puntuali, specifiche, che hanno trovato l'unanimità di tutta la Commissione. E questa è una bellissima notizia, sono anche, direi, delle ottime iniziative. Che percorso faranno adesso queste proposte? Diciamo, si uniscono a quelle provenienti da tutti gli altri paesi e poi verranno Esatto, abbiamo mandato la nostra proposta alla Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, alla relatrice l'onorevole Simona Bonafè, al presidente Giovanni Lavia, che si è impegnato anche quando è venuto a discutere con noi il risultato della consultazione online, ad accoglierci per discutere con tutta la delegazione italiana al Parlamento Europeo queste osservazioni. E dopodiché, diciamo, fino a novembre indicativamente, il Parlamento Europeo discuterà diciamo, queste misure che sono arrivate da tutti gli Stati, che l'onorevole Bonafè ha già prodotto e sono molto coerenti con le nostre, e successivamente all'approvazione, diciamo, del Parlamento europeo, il Parlamento andrà alla negoziazione con la Commissione europea e da lì ovviamente scaturiranno i testi delle quattro direttive del piano d'azione. Ma speriamo bene allora che il percorso possa procedere rapidamente per arrivare, insomma, a conclusione quando le vostre proposte, ma anche quelle degli altri, non saranno superate dalle tecnologie, dai tempi, da chissà che cosa. Esatto. No? Perché più tempo ci mettiamo, più tardi partiamo. Grazie molte, allora buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie a voi. È tutto per questa puntata, vi diamo appuntamento la prossima settimana alla stessa ora e non dimenticate 7 e 8 luglio Castelbuono, Palermo, 18ª Assemblea Nazionale del Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane.